Sai su Radio Wombat, questa è 8 Hertz. Sai su Radio Wombat, questa è 8 Hertz. I'm Hello, buonasera a tutti. Questa è 8 Hertz e siete ovviamente su Radio Wombat. Finalmente ritorno un po' più a parlare, visto i vari programmi, diciamo, un po' più muti di 8 Hertz ultimamente. Non si parla di elettronica, ma di roba un pochino più tranquilla. Appunto, avete sentito l'incipit che erano gli Allman Brothers con Midnight Rider, che è un pezzo famosissimo tratto dal primo disco loro del 1970, che si chiama Idlewind South, così come loro sono stati un po' i fautori del Southern Rock, ovvero un miscuglio tra blues, rock e il country dei simpaticoni dei sudisti degli Stati Uniti. E a celebrare un po' la pre-estate, diciamo, questo caldo che è iniziato un po', non al massimo, non siamo ancora in estate, ma insomma già la mente inizia ad andare in certi tipi di luoghi e ho voluto un po' marcare la cosa con certi tipi di suoni. Vi metterò ora un pezzo di cioè, a suo modo c'entra forse come atmosfera. Loro sono i Sonic Youth. Il brano si chiama Express Way to Your School. Tratto da Evil del 1986, pubblicato dalla grandissima SST Records. Intanto ascoltatevelo, che è molto, molto carino. Tanto su questa coda vi ricordo che 8Hz il giovedì alle 21:15, ma lo potete ascoltare in diretta, ma lo potete ascoltare in podcast come ogni altro programma che succede in Radio Wombat, anche in due repliche settimanali. Nel caso di 8Hz sono venerdì alle 19:30 e sabato mi pare alle 13:30, aspetta, controllo perché sono un po' gonfio e quindi non mi ricordo bene gli orari. Alle 14:30, scusate. Quindi non lo so, una playlist così, una playlist, un programma così che ha a che fare con l'estate, potete provare ad ascoltarlo sia di giorno che di notte e capire un po' se vi ricorda un po' una sensazione estiva, se ve la inizia a fare prendere come stagione, insomma. Mentre il brano sta finendo, vi dico cosa ascolterete dopo, ovvero un pezzo degli Asker Duke che si chiama Ice Cold Ice. Mi piaceva l'idea di mettervelo in questa puntata pre-estiva, proto-estiva. E loro, vi ricordo che sono del Minnesota, un gruppo che si formò nel 79 composto da un trio che è Bob Mould, il Foo, poverino, Grant Hart, morto poco tempo fa, e Greg Norton, e sono stati tra i primi a mischiare il punk e l'hardcore con il pop, e hanno creato una vera e propria scia infinita di gruppi. Adesso ve li faccio ascoltare. Il pezzo è molto aggressivo per quanto melodico, Ice Cold Ice, tratto da Warehouse Song and Stories del 1987, erano già famosi e il disco uscì per la Warner Bros. Buon ascolto. Blair. We said and prayed together that they might. Un grande pezzo di Masked Duo, ma girando un po', spaziando per la mente dei miei ascolti ultimamente, che avevano a che fare un po' con questo tempo che andava e veniva, mi sono imbattuto su un brano di Blur che comunque a me piace. Era un grande gruppo Britpop, molto conosciuto per tanti pezzi commerciali, ma sempre molto ben suonati e ben ricchi proprio di musica, mai superficiali. E, insomma, mi sono ricordato di questo pezzo che si chiama To The End, che ha lascia un po' questa sensazione di afa, diciamo, in testa, anche se parla di tutt'altro, e comunque il video ricorda molto l'anno scorso a Marienbad, che è un film del 61 di l'RSNE, un po' per l'ambientazione, che è una villa di Praga. E il video lo girò David Mould. Mi è piaciuto molto proprio per la somiglianza, appunto, con quel film assurdo che è l'anno scorso a Marienbad, ma anche perché c'è proprio un gioco che avevo provato a chiedere a Nina su quale della Brusca quale figura retorica possa essere. Spiegandoli, lei mi ha detto che era un ossimoro, ma in realtà non so se è proprio un ossimoro, perché cosa succede nel video? Succede che c'è la musica del Bel Air con un testo molto forte e anche un po' romantico così, e il video in realtà è tutti questi personaggi un po' super fighi, che sembrano quasi a un gran galà, che si guardano, si cercano, tutto in bianco e nero. E sotto appaiono delle scritte, dei testi di quello che pensano uno dell'altro guardandosi, che sono veramente ridicoli e stupidi, per cui non so se può essere, si può chiamare effettivamente uno simbolo, una figura più complicata. Comunque il video andatevelo a vedere, loro sono i Blur. E tra l'altro, oltre alla voce in inglese, c'è anche una voce in francese a quadruplicare un po' il caos, diciamo, della cosa. Buon ascolto, To The End. We'll be right back. lo so, questa puntata è piena di gruppi mainstream praticamente. Però dai, spero che sia roba comunque piacevole da ascoltare, che la puntata voleva essere proprio piacevole a differenza di tante che faccio che sono molto estreme. E così, insomma, vi lascio un po' rilassare l'udito prima di chissà cos'altro. E anche rilassare il cervello oltre all'udito, ovviamente. E non poteva non essere messi i grandissimi Porno for Pyros. Era un gruppo degli anni 90, ma chi sono in particolare? Sono una sorta di progetto fondamentalmente di un appendice dei Jane's Addiction, dei famosissimi Jane's Addiction. E ci formati fondamentalmente da Perry Farrell, che era il cantante appunto di Jane's Addiction, e il batterista di Jane's Addiction, che si chiama Stephen Perkins. Insieme ci suonano Martin Lenobre e Peter Di Stefano, e poi vari featuring come Flea dei Red Hot Chili Pepper, Mike Watt, l'altro famosissimo bassista dei Minutemen e Company. E è un gruppo ovviamente della West Coast area, proprio di Los Angeles. No, sono di Los Angeles. Vabbè, lasciamo stare. Hanno fatto due dischi, fondamentalmente. Il primo è del 93, l'altro del 96. Tra l'altro anche un po' diversi tra loro, anche come tipo di sonorità, di scelte timbriche. Ora adesso sentiamo un brano del secondo disco. Sono bellissimi tutti e due, peccato che non abbiano fatti degli altri. Ogni tanto ci penso e mi dà noia questa cosa. È tratto da Good God's Urge, uscito per la Warner Bros. Era gente famosa. Negli anni 90 comunque l'etichettone sceglievano anche dei gruppi validi, oggi pare che non ci sia più nessuno e ci si può tornare dopo nell'argomento. Il brano si chiama 100 Ways, Porno for Pyros. shades, I would kiss you before you opened up your eyes. Parlando di personaggi famosi nel mondo musicale, insomma, fondamentalmente rock, ci sono due tizi, lui e lei, che hanno fatto tre o quattro dischi insieme che sono molto belli e hanno due bellissime voci. E si chiamano rispettivamente Isabel Campbell e Mark Lanegan. Isabel Campbell è la cantante former dei Belle Sebastian, che era un gruppo che andava molto negli anni 90, diciamo, cos'era, tipo indie, non lo so, una cosa del genere, molto quasi mielosa, però simpatica, insomma. E Mark Lanegan invece, che era il cantante degli Screaming Trees, gruppo di Seattle, sempre, ovviamente degli anni 90, e che ha collaborato con tantissimi gruppi e personaggi, tra i quali i Queen of the Stone Age, i Mad Season, i Gutter Twin, Soulsaver, insomma, comunque ne ha fatte tantissime, di duetti anche con Oro, mi ricordo l'altra cantautrice molto famosa. Beh, comunque è una persona rodatissima, e loro due hanno fatto appunto vari dischi insieme, mi pare quattro. Questo brano è tratto dal primo che fecero insieme, che si chiama Ballad of the Broken Seas, uscito per la V2 del 2006, e il brano si chiama False Husband, e secondo me ci stava bene. Been my darling. po' lezione Nancy Sinatra e Lee Hazlewood, che erano anche loro un duetto, lui e lei, con queste atmosfere quasi epiche, diciamo, nella psichedelia degli anni 70, dai quali appunto riprendono Isabel Campbell e Mark Lanegan. E continuando sulla psichedelia e su diciamo le ritmiche rallentate, ma comunque assolate, o sotto un cielo desertico notturno, non potevo non mettere un brano degli Earth che vi ho messo altre volte, quindi andatevi a sentire i podcast passati per sapere chi è fondamentalmente lui, Dylan Carlson, sempre di Seattle, e quanti dischi ha fatto sotto con varie versioni degli Earth. Diciamo, questa era la parte di mezzo, quella che è diventata un po' il marchio di fabbrica degli Earth, ovvero marcatamente, oltre che psichedelica, desert sound, diciamo. Il brano si chiama Hung from the Moon, è tratto da un disco che uscì per la Southern Lord, come tanti degli Earth, uscì nel 2008 con un titolo abbastanza lungo che si chiama The Bees Made Honey in the Lion's School. Earth Hung from the Moon. Thank you. Adesso vi prometto che ve la faccio riprendere un pochino meglio, anche se il pezzo era bellissimo, ma vi voglio fare una segnalazione su una nuova trasmissione che è nata, che si chiama Buongiorno Palestina. È stata fatta una puntata zero e la prima puntata che appunto parla di quello che succede in Palestina e che difficilmente conosciamo, per cui mi sembra sia la trasmissione il mercoledì alle 7:30, se non sbaglio. Comunque potete guardare il palinsesto sul sito di Radio Wombat, che è www, no, scusate, wombat.noblogs.org. Ecco, è alle 19 la diretta, e poi a seguire nei giorni successivi il podcast. Quindi ascoltatelo, ascoltate tutte le altre trasmissioni, ovviamente ascoltateci anche sulla l'onda AM, o come se fosse una vera e propria radio, all'1359, appunto AM. E basta, proseguiamo con cose un pochino più power, diciamo. Vi faccio ascoltare un brano che ho scelto perché, vedendo il video, era un video girato al mare, fondamentalmente, del nuovo progetto di Svenonius, che si chiama Escapism. Jan Svenonius è di Washington DC, un americano che suona da tanto, soprattutto negli anni 90, ha marcato il mondo della musica con alcuni gruppi. Tra i più famosi erano i The Make Up, ma poi ce n'erano tanti altri: Chains and the Gang, Cupid Car Club, Publicist e altri. Insomma, il progetto Escapism, anzi, è un duo di lui con, credo, la sua compagna. Non sono riuscito a trovare niente, neanche il nome e cognome di lei. E li ho visti recentemente dal vivo al Circolo del Progresso, attraverso un'organizzazione che si chiama L'Asciut. È stato un bellissimo concerto. E da notare anche, ne parlavano, che è anche uno scrittore, molto scherzoso anche, però anche diretto su questioni politiche. L'ultimo libro che ha scritto si chiama Censura Subito. Dalle note di copertina c'è scritta questa cosa: abbiamo bisogno della censura, abbiamo bisogno di censurare la radio e i giornali, di censurare i libri, l'industria cinematografica, la musica, le arti. La tanto osannata libertà creativa ha dato vita a un ambiente tossico che cova violenze inespresse e ci consegna alla depressione, al suicidio, allo sterminio. Ovviamente sono parole prese in giro, anche se qualcosa voleva dire riguardo l'andazzo un po' dei gruppi, delle cose artistiche che non hanno più a che fare, diciamo, con un certo segno politico, per cui tutto diventa totalmente inespressivo e povero. Ovviamente non c'è bisogno della censura per riproporre robe buone, però insomma, diciamo che la cosa era questa. Insomma, Escapism, il brano si chiama Body Snatcher, che è uscito sia come singolo, ma anche come si trova in un disco che si chiama The Lost Records per Merge Records del 2018. Dal vivo è stato molto intenso, diciamo, molto molto punk, ricordava veramente i Suicide, dai quali un po' ha ripreso. We all know someone who got body snatched, taken away. We all wonder if there's something we could have done different to make him stay. Body snatch, take me away. You're my body snatcher, baby. Body snatcher, take me away. You're my body. Body snatcher, baby. You snatch my body. You snatch my mind. You snatch my ear. You snatch my eyes. You snatch. Uscì un pezzo di un tizio che a quei tempi conoscevano solo un po' più gente che ci stava dentro, e invece uscì per un po' il grande pubblico, che si chiama AOB, che è Howard Bernstein, nato nel 63 di Glasgow, che appunto era diventato poi un produttore elettronico, tecnico del suono, e anche songwriter, tra l'altro. Ha partecipato a vari film, tra cui anche Wim Wenders, come musica. Era assistente del compositore di musiche per film di Stanley Myers, che era Stanley Myers, scusate. E uscì questo brano che, quando lo vidi, vuoi per la musica, vuoi per il video, mi ricordava proprio l'estate piena. Quindi ora ve lo metto, si chiama Switch, forse l'avete sentito anche in qualche jingle che davano alla televisione, tratto dal disco Turn the Dark Off del 1997, uscito per la Polydor. Thank you. Switch. Switch. Switch. Switch. Un po' sul sound afro, c'è un bel pezzo che è uscito nel 2014 da questo progetto ancora attuale che si chiama The Bug di Kevin Richard Martin, ovvero colui che ha creato i God, i Techno Animal e gli Ice, li ho fatti sentire tante volte. Questo disco che si chiama Angels and Devils della Ninja Tunes collabora per ogni brano con una persona sempre dell'ambito musicale, diciamo è un disco di featuring. Questo pezzo è insieme a Miss Red che canta appunto il brano marcatamente Reggamuff, anche se insomma lui usa non solo il reggamuffin ma la dubstep, l'hip hop, anche l'industrial, tutto in maniera molto pesantona, diciamo. E è buffo perché è cantato, ora non so bene, magari chi sta ascoltando lo sa, in questa sorta di inglese africanizzato, diciamo. Comunque ora ve lo faccio sentire, che è molto bello il pezzo, simpatico, anche abbastanza breve. Si chiama Me Lost, sono io perduta, io persa, cantata appunto da Miss Red, The Bug, e ci avviamo praticamente alla conclusione, manca un pezzo oltre a questo. Semi-loss, not in nature, I'm the one that's semi-loss. See ya. siamo arrivati alla fine di questa ennesima puntata di 8 Hertz su Radio Wombat. Vi ricordo di iscriverci a postwombat@insiberia.net se avete delle idee o se volete criticarci, insultarci o farci qualche complimento, che non farebbe mai male. E, insomma, era una puntata sull'estate che è arrivata o sta arrivando, ancora non si capisce, ma è chiaro che anche d'estate pioverà e ci saranno dei temporali, e allora voi vi ricorderete di questo brano che vi metto come conclusione. È un brano delle Zeppelin che ovviamente conoscerete sicuramente perché sono famosissimi. Non vi dico nulla quindi delle Zeppelin, ma vi dico che il brano si chiama The Rain Song, tratto da un disco che si chiama Houses of the Holy, uscito per l'Atlantic nel lontano 1973. Io vi lascio con questo bellissimo, stupefacente pezzo, anche un po' rilassato, per quanto triste, The Rain Song, Led Zeppelin. Buonanotte o buongiorno, secondo se di che ore ascoltate la replica o il podcast, e a presto, alla settimana prossima. Ciao. Like the wind, their eyes.